approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Un cenone made in Italy. Durante queste ultime feste, sulle nostre tavole, non sono di certo mancati i prodotti e le ricette della migliore tradizione enogastronomica made in Italy. L'Italia è il paese con il maggior numero di prodotti DOC e IGP riconosciuti dall'Unione Europea, ben 275 prodotti agroalimentari e 523 vini. Il nostro paese, con tutto il suo made in Italy, raggiunge 36 miliardi di euro di export agroalimentare. Solo il mercato vinicolo vale quasi 6 miliardi di euro all'anno, con il 17% delle bottiglie vendute in tutto il mondo e il 28% di quelle vendute in Europa provenienti dall'Italia. Tutti prodotti che devono viaggiare e in Italia oltre il 90% dei prodotti agroalimentari viaggia su gomma. Anche quando importiamo le materie prime, il discorso non cambia. Sia che si tratti di carni brasiliane o argentine, sia che si parli di soia, che proviene per il 98% da Asia o America, o di formaggi dalla Francia, gran parte del viaggio è stata fatta a bordo di un tir con semirimorchi refrigerati. Insomma, se gli italiani hanno potuto consumare un cenone di fine anno ricco di prodotti nazionali ed esteri, è in parte anche grazie al complesso mondo della logistica, un mondo che non si ferma mai, neanche la notte di Capodanno. Salve a tutti da Massimo De Donato e benvenuti a questo primo appuntamento del 2016 con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come avete ascoltato dalla scheda iniziale, parliamo di un trasporto che è stato particolarmente importante durante queste feste, perché parliamo del trasporto di prodotti agroalimentari. Tutti noi abbiamo superato, credo indenni o quasi, i vari cenoni, sia quello di Natale sia quello di Capodanno, ma come è stato possibile far arrivare sulle tavole degli italiani i prodotti del nostro Made in Italy? Ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, Riccardo Stabellini, direttore logistica Italia di Barilla. È stato sicuramente un periodo di fuoco per chi si occupa di logistica agroalimentare e voi dovreste saperne qualcosa. Direi di sì, senz'altro il mese di dicembre è il mese più complesso dal punto di vista della gestione delle uscite dai nostri magazzini e dal punto di vista della gestione del trasporto. I picchi di volumi che si registrano in questo mese sono indubbiamente molto elevati e riguardano evidentemente tutti i prodotti, non soltanto quelli distribuiti dalla nostra azienda, ma anche tutto il comparto. È un comparto decisamente sollecitato in questo periodo. Certo, un comparto sotto pressione. E presentiamo anche il secondo nostro ospite, Claudio Leoni di Unilog, altra azienda impegnata sul fronte della logistica agroalimentare, in questo caso per conto terzi, quindi per conto dei clienti. Quali sono state in questo periodo le sollecitazioni maggiori che sono arrivate dal mercato? Il mese di dicembre è caratterizzato da un forte incremento dei volumi, quindi la difficoltà maggiore è quella della gestione di questi picchi di attività, quindi volumi che devono partire dal produttore per raggiungere i centri distributivi piuttosto che i punti vendita. Queste sono le maggiori difficoltà, perché chiaramente in questo momento c'è una necessità di soddisfare questa maggiore richiesta e quindi bisogna mettere in campo tutte le risorse necessarie per poter affrontare queste criticità. Certo, tra poco cercheremo di capire quali sono le risorse che vengono messe in campo per poter garantire la logistica agroalimentare. Stabellini, un problema, se di problema vogliamo parlare ovviamente, che non riguarda solo l'Italia ma un po' tutta Europa. Ecco, lei fa parte di un'azienda che esporta molto e quindi le volevo chiedere, ma le difficoltà che si registrano in Italia in questo periodo si registrano anche in altre zone europee? Sì, l'esportazione verso l'Europa in particolare è caratterizzata da volumi molto significativi nei paesi di riferimento, Germania, Francia, Svizzera e Nordics, che indubbiamente nel periodo delle festività anche le uscite verso questi paesi sono molto molto elevate e indubbiamente bisogna ricorrere per tempo ad una pianificazione delle attività di magazzino e delle attività di trasporto adeguata. Quali sono stati i prodotti più richiesti in questo periodo? Indubbiamente il mese di dicembre è il mese della pasta all'uovo, tagliatelle, lasagne in particolare, che nei giorni di festività, Natale, Santo Stefano e diciamo il cenone di Capodanno sono indubbiamente i prodotti più richiesti. Che abbondano su questi nostre tavole, bisogna produrre in anticipo e quindi bisogna fronteggiare in modo adeguato la costruzione delle scorte necessarie alle uscite concentrate fra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre e poi programmare per tempo le attività di magazzino e allertare i fornitori di trasporto che devono mettere a disposizione gli automezzi necessari per poter fronteggiare le attività di consegna sia in Italia che verso le principali destinazioni europee. Ecco, lei diceva allertare i fornitori dell'autotrasporto, passiamo di nuovo la palla quindi a Leoni. Ad un certo punto vi arriva, arriva a lei come a, ad un qualunque altro responsabile di un'azienda come la sua, un allarme dell'azienda produttrice che vi chiede un maggiore impegno durante queste settimane. Cosa succede nella macchina organizzativa logistica? Di fatto poi questa è un'attività che viene pianificata con un po' di anticipo in ragione del fatto che sono flussi che sono già predefiniti, predeterminati, quindi già subito dopo le ferie si inizia ad impostare la fase più critica, che è quella della gestione appunto di questo incremento dei volumi, che tende ad amplificarsi, a trovare il suo culmine nei primi 10-15 giorni del mese di dicembre. Quindi vengono messe in campo tutta una serie di risorse, parliamo di automezzi, quindi si ricercano sul mercato automezzi per poter compensare questi maggiori volumi, attività di movimentazione, quindi movimentatori di magazzino per gestire il passaggio delle merci dai magazzini, e una grande attività di pianificazione dei flussi, quindi cercando di ricevere con il più anticipo possibile gli ordini dai produttori per poter riuscire a gestire appunto questi flussi. Ecco, in termini percentuali, Leoni, di quanto cresce il movimento, il trasporto, la logistica nel periodo di dicembre? Ma per quello che riguarda il nostro settore, noi ci occupiamo di distribuzione alimentare fresca, freschissima, e anche di ortofrutta. In questo particolare periodo, il mese di dicembre, noi normalmente registriamo un incremento dei volumi di circa il 30-35%. Stabellini, questi incrementi sono paragonabili anche agli incrementi di produzione che si registrano negli stabilimenti? Cioè esiste un collegamento diretto tra produzione e trasporto? Ovviamente alcune filiere sono molto sollecitate, in particolare le filiere che realizzano prodotti di ricorrenza. Nel nostro caso non c'è un picco di stagionalità così marcato, però è indubbio che su alcune tipologie di prodotto, quelle che ho descritto poc'anzi, indubbiamente l'incremento è molto significativo. Le fabbriche non possono aumentare la loro capacità di produrre del 30%, e quindi si fronteggiano queste esigenze preparandosi spalmandole in anticipo, tempo, toccando certo, nei magazzini certo, il prodotto necessario che poi deve essere consegnato. Ecco, a proposito di stoccaggio, Stabellini, voi gestite dei sistemi di magazzino all'avanguardia, addirittura in alcuni casi completamente automatizzati e robotizzati. Quanto è vincente questa scelta rispetto invece ad un magazzino classico? È una scelta vincente perché permette un miglior sfruttamento degli spazi, una costanza e una standardizzazione della preparazione delle merci, e permette di poter operare sulle 24 ore senza interruzione. È evidente che occorre un'ottima sinergia con la risorsa trasporto, che deve essere disponibile, e noi fronteggiamo questa particolare necessità utilizzando automezzi posizionati nei piazzali dei nostri magazzini. Bene, termina qui anche questa puntata di Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email container@radio24.it. Il nostro appuntamento ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.